Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ballava circondata dai miei amici, bellissima ed elegante. I capelli neri raccordati al collo sottile, come una donna di Modigliani. Ricordo il suo sorriso splendido mentre ballava. Tutti godevano della sua luce, tutti tranne me. Sono Nicola, ho 39 anni, vivo e lavoro a Vienna, ma sono nato e cresciuto a Pisa. Ha voglia quello che diceva che non si muore per amore, è una grande verità. Chi è che lo diceva? Lucio Battisti, parlava prima con Pietro La Corte. Lucio Battisti è uno degli autori preferiti di Pietro La Corte. Ho trovato una roba, se mi togli la base, facciamo questa roba veramente sporca, La Corte. È questa qua, no? Come si intitola? Io vivrò senza te, giusto? Qua è lui che canta dal vivo, una roba sporchissima della Rai, credo. E non era intonatissimo, Lucio? Che non si muore per amore è una gran bella verità, perciò, dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. 349-238-6666, la traduzione di Voi siete qui è il vostro primo due di picche. Allora, lo so che sembra una conclusione affrettata questa, di pigliare il due di picche col morire per amore. La storia di Nicola, però, dice un'altra grandissima verità, che a 19 anni nel suo caso, ma anche a 16, a 20, a 15, in quella fascia d'età lì, si muore come per amore. Nel momento in cui ti trovi in faccia al tuo primo no, o magari nemmeno in faccia, ma di traverso, lo capisci e scappi via, lo capisci e preferisci non finirci dentro con mani e piedi, lì un pochettino muori. Poi impari anche, come giustamente dice lui, che poi in realtà rinasci, sopravvivi e vai avanti. Però quel primo due di picche lì, quel primo no, ti fa, come no, schiattare. 349-238-6666. Se avete un profilo Facebook e ce l'avete aperto davanti agli occhi in questo momento, andateci, digitate Voi siete qui Radio 24, cliccate su mi piace, trovate Giacomo che scrive il mio primo due di picche è stato un tre di quadri. Giacomo, che vuol dire? Spiegacelo. Angelo, il mio primo due di picche. Francesca, quarta elementare. Mazza, quarta elementare. Io pensavo 15-20 anni, quarta elementare ne hai 9. Ha iniziato prestissimo, quarta elementare circa, il primo di una lunga serie. Nicola, probabilmente all'asilo. E poi tanti, ma tanti, tanti. Va bene, però, allora, facciamo il primo due di picche in cui avete avuto un tracollo vero e proprio, ok? 349-238-6666. Quello per il quale avete provate quasi una forma di affetto. Cioè, un due di picche per il quale al ricordo vi viene una forma di malinconia dolce, perché da quella cosa lì avete imparato delle cose. Quello che ha imparato appunto Nicola è stato che sì, si muore per amore a 19 anni, poi però ci si rimette in piedi. C'è un profilo Twitter di questo programma, oltre a un profilo Facebook, è Voi siete qui R24, con la chiocciolina davanti per cercarci. L'hashtag è sempre Voi siete qui. Oggi però ne abbiamo un altro, abbiamo sempre un doppio hashtag, quello del programma e poi quello di oggi, ovviamente è due di picche con il due di numero. La storia di Nicola, vi dicevo, la storia di Nicola è la storia di Elena. L'abbiamo chiamata Elena perché già una volta l'abbiamo pestata con un nome vero, e allora lo diciamo anche a Nicola, visto che non l'abbiamo ancora avvisato. Nicola, si chiama Elena la tua Elena, ok? 349-238-6666. L'unica vera ragione per cui ero andato fino a Torino a quella festa di matrimonio era l'occasione di incontrare ancora una volta Elena. Mi aveva conquistato durante l'estate con il suo essere il mio esatto contrario, estroversa, solare, a suo agio con il mondo. O almeno così mi appariva. Perché si sa, quasi nessuno è veramente a suo agio con il mondo. Ma questo l'ho capito solo da pochi anni. Quando dico di non essere a mio agio con il mondo, intendo dire di non essere in grado di fare esattamente ciò che vorrei fare. Come spesso mi accadeva in quegli anni, non ne avevo parlato ad anima viva. E nel silenzio, giorno dopo giorno, avevo costruito una montagna basata sul nulla. In quel periodo difficile della mia vita vivevo un'esistenza schizofrenica in cui tutto era suddiviso in dimensioni che non si sovrapponevano mai tra di loro. C'era la vita d'estate, c'era la noia mortale della mia vita in città, c'erano gli amici dell'università. Tenere tutto insieme era difficile, quasi impossibile. Arrivai alla festa di matrimonio accompagnato da mia sorella, attraversando mezza Italia in macchina. Elena era già lì, splendida come sempre. Un vestito corto di cotone scuro con un motivo floreale. Mi venne a salutare amabile, profumata e radiosa, come sempre. Tra noi, col tempo, si era creata una certa intimità. Io ricambiai i saluti con il consueto imbarazzo. Imbarazzo per il mio corpo ingrossato, per il vestito sformato, ma soprattutto per le mie debolezze. Poi ci disperdemmo nella festa. Iniziai a bere con i miei amici per trovare il coraggio di fare qualcosa, qualunque cosa, o almeno per non pensarci troppo. Man mano che la festa procedeva, il mio tasso alcolico saliva e io inconsapevolmente mi avvicinavo sempre di più al bordo di un abisso che per molto tempo non avevo voluto guardare. Durante la festa incontrai Elena varie volte. Lei sempre più solare, io sempre più incupito. A notte fonda mi ritrovai seduto su una poltroncina di vimini, solo. Un flute di vino bianco in mano, forse spumante. Elena stava a pochi passi davanti a me. Ballava circondata dai miei amici, bellissima, elegante. I capelli neri raccordati al collo sottile, come una donna di Modigliani. Ricordo il suo sorriso splendido mentre ballava. Tutti godevano della sua luce, tutti, tranne me. Più lei ballava, più diventava splendida, più io mi sentivo affondare in quella maledetta poltroncina di vimini, come inghiottito dall'imbottitura. La mano destra contratta sul vetro del bicchiere, il vino ormai caldo. Pian piano iniziai a percepire, tra Elena e me, una invisibile barriera di cristallo, tanto trasparente quanto infrangibile, che separava la sua vita luminosa dalla mia meschina esistenza. Ingollai, stringendo i denti, le ultime gocce di vino aspro. Per la prima volta fui costretto a guardare dentro l'abisso e con amarezza dovetti accettare di guardare la realtà dei fatti. E non potevo puntare l'indice se non verso me stesso. Ecco, quella notte capii che a volte, a luglio, a Torino, si può anche morire a 19 anni. Intendo dire che a volte può capitare di pensare di essere morti, ma che invece, dato che uno ha 19 anni, magari invece non è vero. Uno si sente come che non ci sia più futuro, ma in realtà, visto che uno ha 19 anni, ha ancora tutta la vita davanti per accorgersi che non è così. Fortunatamente poi scoprì che a volte a 19 anni si può anche rinascere, ma questa è un'altra storia. Durante il viaggio di ritorno guidai ascoltando musica, scambiando solo qualche parola con mia sorella. Arrivato a casa mi chiusi la porta di camera mia e piansi a dirotto per qualche giorno. Per tagliarmi i ponti alle spalle scrissi una lettera a Elena in cui mi autosputtanavo su tutta la linea. Alla fine comprai delle vernici e dipinsi un grande mare sommerso sul muro di camera mia. Questo murales sta ancora lì, sotto uno strato di vernice bianca. La mia Elena si chiamava Grazia. Avevo 15 anni, facevo la seconda liceo. Lei pure, ma non era nella mia classe. E anche io, come Nicola, molti anni fa, un giorno, ho scoperto che da ragazzo a volte si può anche morire. E come dice lui, poi si può anche rinascere, però quando lo scopri è un sollievo quasi inutile, che non spegne la sofferenza precedente. Lei era nella B, stava al secondo piano, io nella M, stavo al terzo. Aveva i capelli corti e gli occhi celesti. Sorrideva sempre. Sembrava buona. Anzi, sembrava che il mondo fosse buono quando sorrideva lei. Però si capiva subito che era molto pericolosa. L'avevo conosciuta nell'intervallo in mezzo a tutti gli altri. Poi A febbraio, esattamente il 14, che era sì San Valentino, ma era soprattutto il suo compleanno, io e Federico Ambiel, non so perché decidemmo di farlo in due, forse perché avevo paura di farlo da solo, lui mi aiutò. Insomma, io e Federico le regalammo un mazzo di fiori. Lei il giorno dopo fu molto carina, molto gentile e ci ringraziò, sempre sorridendo. Dopo qualche giorno, anche spinto da Federico che intanto si era defilato, mi feci coraggio e la invitai al cinema. All'intervallo, parlando del più e del meno, spostai l'argomento sul film del momento e le chiesi se aveva voglia di venire al cinema con me. Mi vantai di avere due biglietti gratis grazie agli accrediti del papà di Federico, che lavorava per il giornale di Novara. Lei sorrise e mi disse: «Ma certo, ci vengo volentieri al cinema». Ci accordammo per il successivo sabato pomeriggio, per lo spettacolo delle 15. E io trascorsi i giorni che mi separavano da quel sabato in una sorta di trance. Non ero in grado di fare nulla se non pensare come sarebbe stato rimanere al buio vicino a lei. Non lo raccontai a nessuno, tranne che a Federico, ovviamente, e non lo feci forse perché sapevo che era un desiderio complicato. Non ci avrei creduto fino a quando non fossi stato lì, al cinema Eldorado, insieme a lei. Sabato mattina andai a scuola convinto di incrociarla e di ritrovarmela di fronte sorridente, che mi diceva che le spiaceva, ma che non poteva più, perché si era accorta che non le interessavo per nulla. E si era sbagliata a dirmi di sì. All'intervallo quasi non uscii dalla classe, poi mi feci forza e scesi le scale. In mezzo al casino dell'intervallo la incrociai, ci salutammo, non le dissi nulla e lei fece altrettanto. Quando a mezzogiorno tornai a casa mi sentivo un vincitore, perché un silenzio era la conferma che nel pomeriggio ci sarebbe stato quell'appuntamento. Arrivai a casa, mangiai con i miei genitori dicendo che poi più tardi avrei ripreso l'autobus per tornare a Novara con i miei amici. E suonò il telefono. Non il cellulare, ovviamente, ma il telefono di casa. Rispose mia sorella: «Sì, un attimo che te lo passo. Matteo, grazie». Quello che mi disse io me lo ricordo molto bene, parola per parola. Però per rispetto alla mia memoria riporterò solo la sostanza di quella telefonata, che era questa: aveva preso un brutto voto nel tema in classe e sua mamma si era molto arrabbiata, impedendole di uscire per tutto il fine settimana. Io le dissi che non c'era nessunissimo problema, ovviamente, che figurati, lo capivo benissimo, che anzi, guarda, pure io non ho preso proprio un ottimo voto nel tema e quindi mi sa che sto a casa pure io. Per non dare nell'occhio coi miei non dissi nulla e andai comunque in città con l'autobus, e mentre facevo un giro per il centro, con Federico ovviamente, passando proprio davanti al cinema Eldorado, in un gruppo di 4 o 5 ragazze la vidi, che rideva come se da sempre avesse saputo che quel pomeriggio l'avrebbe passato con le sue amiche. Poi è successo molte altre volte, ovviamente, non con lei e non al cinema Eldorado, ma è successo un sacco di volte di ritrovarmi così, in quello stesso stato, ma solo la prima volta si muore. Le altre si sente tanto male e ti accorgi che sei ancora vivo. Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else. Ero in tenda con lui, conosciuto sulla spiaggia, 17 anni, al dunque mi disse di no. La giustificazione fu: la prima volta deve essere speciale. Firmato Laura. Non so, questo l'ha detto, cioè te l'ha detto lui, Laura, giusto? Mi sembra di capire. Cioè lui, cioè tu un po' hai provato e lui ha detto no, la prima volta deve essere speciale. Lui, giusto? Cioè lui ha detto di no, giusto? 349-238-6666. Laura, un'altra, 16 anni, si chiamava Simone. Che strano, l'ho incontrato stamattina, chissà dove. Vabbè, ringrazio Abba da Legnano che mi scrive: secondo me prima della fine della puntata per errore dirai il nome vero di Elena. No, ce la farò a dire il nome di Elena e sarà Elena per tutta la puntata. Vince su, chiaramente, potremmo chiudere la puntata qua, a dire la verità, su tutti i fronti, il messaggio di questo sconosciuto che alla domanda qual è stato il vostro primo 2D pic risponde con queste tre parole, con due parole: mia zia. 349-238-6666, ma anche sul profilo Twitter del programma. Daniele dice: voi siete qui R24, il più brutto a 23 anni. Pensavo davvero di farla finita. Poi è passata, per fortuna. Daniele, per fortuna. Però secondo me un po' tutti ci arrivano lì vicino. La stessa sensazione che dice Nicola di aver provato, quella di essere morto a 19 anni. Poi ti riprendi. Però quella roba lì è una sensazione. Non potendo raccontare com'è la morte vera, uno probabilmente la immagina in quel modo lì. Pronto, Nicola? Sì, ciao. Ciao, come stai? Tutto a posto, mi sono ripreso da quel giorno di luglio. Infatti la prima cosa che volevo chiederti era questa, anche perché quanti anni fa erano? Una ventina. Quanti anni hai adesso, Nicola? Io ho 39 anni. E ne avevi 19, giusto? Per cui 19, siamo sì. Precisi. Elena, giusto? Abbiamo deciso che la chiamiamo Elena. Sì, Elena. L'abbiamo più vista? Sì, l'ho rivista tante volte perché frequentavamo le stesse persone d'estate e quindi inevitabilmente l'ho rivista. E la prima volta è stata un po' imbarazzante, ma poi mi sono abituato. Dopo qualche anno lei è andata via, per cui non si è più presentata all'occasione. Perché mi spieghi qual è il giro? Cioè, erano gli amici del mare, giusto? Lei era, esatto, sì, gli amici del mare. Quindi eri andato a Torino a un matrimonio semplicemente perché qualcuno degli amici del mare si sposava. Ok, abbiamo ricostruito tutto. Mi racconti del murales che è ancora sotto casa tua, sotto la vernice bianca. Quindi quando i posteri scaveranno troveranno questa archeologia amorosa, un vecchio murales che raffigura il fondo del mare, giusto? Un fondo del mare con un sacco di pesci colorati. E si chiederanno che cosa rappresenta e sicuramente non capiranno, almeno io me lo auguro. Che cosa fai adesso, Nicola? Io sono un geologo e vivo qui a Vienna, in Austria, da 5 anni circa. Come mai? E mi sono spostato perché qui le opportunità di lavoro erano più convenienti e quindi mi sono spostato. Ma lavori come freelance oppure lavori per un'azienda di Vienna e quindi... Lavoro per una piccola azienda che ha un ufficio qui a Vienna, un piccolo ufficio a Vienna. Dimmi cosa fa questa piccola azienda che ha un ufficio a Vienna. Noi lavoriamo prevalentemente per l'industria petrolifera, facciamo consulenze per l'industria petrolifera. Ok, e a Vienna si scava? Ecco, questa è la domanda che fanno tutti, ovviamente, certo. Ma... A Vienna... Non, sì, c'è un po' di petrolio, un po' di gas, ma soprattutto poi ci sono delle compagnie che hanno la base a Vienna, ma poi operano in tutto il mondo, per cui noi lavoriamo per loro in tutto il mondo. E perché si pagano meno tasse a Vienna? No, si paga più o meno come in Italia. Va bene. Senti, sei fidanzato? Te lo chiedo perché, guarda, è arrivato adesso un messaggio che dice così. Riccardo da Dublino, quindi è un italiano all'estero, che ha 39 anni, è come te. Sei tu però spostato geograficamente. Mio fratello. Avevo 14 anni, ero sicuro che Angela mi avrebbe detto di sì e non lo fece. Oggi ho 39 anni e da allora non mi sono mai più dichiarato ad una donna. Quindi, diciamo, lo chiedo a te, Nicola, ma è come se lo chiedessi a Riccardo da Dublino. Hai avuto delle... No, io mi sono ripresentato. Infatti, circa l'estate scorsa mi sono sposato. Per cui... Non con Elena. Non con Elena, questo l'avevamo capito, se no non ci scrivevi una storia. Probabilmente te la saresti risolta a modo tuo. Però ti sei sposato con, possiamo dire il suo nome? Con una ragazza austriaca che si chiama Brigitte. Brigitte, che è, tra l'altro, scusa, una nuova vita qui in Austria. È molto più fascinoso. È molto più fascinoso il nome. E mi ricorda che io più tardi vorrei leggere, perché la prima cosa a cui ho pensato, Nicola, è stato quando io a 19 anni, in una situazione simile a quella, lessi I dolori del giovane Werther e Charlotte, o Charlotte come si dice in tedesco, insomma, rappresentava per me quella roba inarrivabile che mi ha ricordato tantissimo la tua Elena, giusto? Ce la posso fare arrivare alla fine fino ad Elena. Quindi tu vivi con Brigitte? Sì, noi viviamo da circa da 2-3 anni. E che cosa fa? Siamo sposati esattamente nel luglio dell'anno scorso, per cui potrebbe essere quasi una specie di anniversario. Ok, quando torni in Italia per le feste? Sì, volevo ritornare a Pasqua, solo che mi sono rotto un braccio e quindi sono bloccato e non posso viaggiare. Ma lavorando ti sei rotto un braccio? No, sciando. Ok. Molto peggio. Va bene, Nicola, ti ringrazio molto per la storia e in bocca al lupo per tutto, per il lavoro, grazie. Per la storia, per la tua storia d'amore, insomma, e per il tuo braccio. Ciao, grazie mille. Grazie mille, ciao ciao. Buona giornata, ciao. Tracollo totale, 16 anni per la fiabesca Paola. Lei mi guardava, io la guardavo. E intanto arrivava un altro, Pierpaolo. Voi siete qui. È su una spiaggia, credo del sud-est asiatico, Nicola, nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre sul nostro sito radio24.it, la pagina di Voi siete qui. Dico sud-est asiatico, ma potrebbero essere i Caraibi anche. Però a giudicare dalle palme e dalla vegetazione sembra un po' la Thailandia, il Vietnam, il Laos, quelle zone lì. Lui è a piedi nudi con in mano delle tappine, come si direbbe dalle parti, no? Le tappine, le ciabatte, sì, che in realtà poi sono dei sandali. Insomma, è in piena tenuta turistica, balneare, bianco con il naso un po' scottato, uno zainetto sulle spalle e l'aria di chi non ha molto piacere ad essere fotografato. Due di picche. Gergale. Il due di picche è un modo gergale per indicare le situazioni e soprattutto le frasi e i modi per smorzare degli approcci da persone indesiderate. Derivato dal gioco delle carte, dove la maggior parte delle volte le picche sono tra le carte che valgono meno. È giusto le picche? È giusto Alessandro. Perlomeno crediamo che sia giusto. O forse no. Però detto da te, Alessandra, sembra tutto perfetto. È arrivato un messaggio sul profilo Facebook del programma di Gianluigi che è veramente struggente. Io adesso non so se posso chiederti una base struggente dal vivo senza avertela chiesta prima, Pietro Lacorto e Tiziano Bonini, ma credo che lo farò, perché è uno di quei messaggi che ha bisogno di una certa atmosfera per essere letti, non può veramente essere buttato via. Però vi avviso a casa, se avete il cuore troppo debole, che si scioglie facilmente con troppa tenerezza, ecco, non ascoltate i prossimi 20 secondi di questo programma. Ora sorrido, ma ricordo che a 14 anni o giù di lì, all'oratorio, ero appoggiato ad una colonna. Esattamente dietro la colonna c'erano due amici che parlavano con Elena. Discutevano di una festa che ci sarebbe stata di lì a qualche giorno. Festa alla quale sicuro sicuro si sarebbe limonato giocando alla bottiglia. Ricordo che le sentii dire: no, no, non diciamolo a lui. Quel lui ero io. Quella frase affilata mi si piantò dritta nel cuore e mentre loro discutevano dei preparativi, forse anche di quale bottiglia da fare girare, io morivo dissanguato, appoggiato a una colonna dell'oratorio. Ti chiedo scusa Gianluigi, guarda, ti giuro, scusami, mi è venuto da ridere, non è carino, lo so, non è carino, però questa roba, tu che senti dire no, non diciamola a lui, a metà tra John Belushi e non so chi altro, e Maurizio Milani, o da Tapparella degli Sarete. E niente, allora ero lì praticamente dietro la colonna dell'oratorio. Laura, ricordo bene l'ultimo due di picche. Sono stata tested and judged, poi scartata. Ah, ok, niente, Laura fa un po' di polizia. Cioè, è stata testata e poi scartata. Mesi e mesi per convincermi che forse non era colpa mia. Forse. 349-238-6666, c'è un profilo Twitter del programma anche, che è Voi siete qui, Radio 24. È arrivato un messaggio di quelli che hanno un due di picche con la coda, con il colpo di coda. Ciao Matteo, il mio primo e unico due di picche. Pensavo non fosse mai esistito, ma mi ci hai fatto ripensare tu. Si chiamava A. Vabbè, facciamo Elena, dai. Ricordo che eravamo in gita a Pompei alle medie. Ero sicuro che mi avrebbe detto di sì, perché io cuccavo. E invece no, sono rimasto malissimo. Lei era un fiore e io l'ape che girava intorno, ma niente. Dopo 15 anni, e qui è il colpo di coda, ci siamo ritrovati nello stesso ufficio in un'altra città. E uno dirà, cos'è accaduto? Niente, come vuole la sorte, scrive Marco, a ruoli inversi. Io ho reso il due di picche. C'è, diciamo, nella nostra scarsa fantasia, includo tutta la redazione, il due di picche dei due di picche letterari, nella letteratura, è quello che Goethe racconta nel Giovane Werther, nei dolori del Giovane Werther, poi diventato in italiano, no, cioè non in Italia, non è stato tradotto, però era diciamo un remake del Giorno di Werther, era Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Visto che si parlava con Nicola di come si possa morire per amore a 19 anni, poi fortunatamente ripigliarsi, abbiamo preso proprio un pezzo del giovane Werther che invece non è per nulla figurato, perché sapete, il giovane Werther a un certo punto dice a Carlotta: io ti amo, ma questa è l'ultima volta che ti scrivo, e quindi che avrai mie notizie. La verità è che Goethe ebbe un successo incredibile con la storia di Werther, divenne una star assoluta, era una sorta di Moccia dei tempi, era una specie di Federico Moccia, il giovane Johann Wolfgang Goethe, al punto che poi Goethe partì per l'Italia, quasi scappò dalla Germania, scappò da questa sorta di fama inaspettata, che è un po', adesso non so se Moccia ha intenzione di scappare dall'Italia per la fama inaspettata che gli è arrivata, però questo fece Goethe, no? Poi fece il Grand Tour in Italia, anche forse grazie all'eccessivo successo dei Dolori del giovane Werther. Questo passaggio è proprio uno degli ultimi, è uno dei più struggenti, in cui Werther, che peraltro è retorico, è melense in una maniera orribile, Tiziano Bonini sostiene che se lo merita, è da quando ne parliamo che Bonini dice: ma dai, se lo merita questo che Carlotta lo mandi a quel paese. In questo passaggio Werther saluta tutti e se ne va. Per l'ultima volta dunque io apro gli occhi, ed essi non devono più vedere il sole, perché una giornata triste e nebbiosa lo tiene coperto. Prendi dunque il lutto, natura. Tuo figlio, il tuo amico, il tuo amante si approssima alla sua fine. Carlotta, è un sentimento ineffabile, che somiglia a un confuso, torbido sogno, dire a se stessi: questo è l'ultimo giorno. L'ultimo. Carlotta, non ha senso per me la parola ultimo. Io mi sento oggi nel pieno delle mie forze e domani sarò giacente senza forze a terra. Morire, che cosa significa? Vedi, noi sogniamo quando parliamo di morte. Io ho visto più volte morire, ma i limiti dell'umanità sono così angusti che per essa non hanno senso il principio e la fine dell'esistenza. Oggi sono ancora in possesso di me stesso, sono ancora tuo, tuo e basta, mia amata. E fra un istante, separato, passato, per sempre forse. No, Carlotta, no, come posso io morire? Come puoi tu morire? Noi esistiamo. Morire, che cosa significa? Questa è una parola, un suono vano, che non ha senso per il mio cuore. Che importa se Alberto è tuo marito? Marito. Questo serve per il mondo, e per il mondo è un peccato, il mio, di amarti e di volerti strappare alle sue braccia. Un peccato, bene, io me ne punisco, ma l'ho assaporato in tutta la sua celeste voluttà. Il mio cuore ha attinto in esso balsamo e forza di vita. Non sogno, non deliro. Vicino alla tomba vedo più chiaro, Carlotta. Noi esisteremo, ci rivedremo, vedremo tua madre. Io la vedrò, la troverò, aprirò il mio cuore davanti a lei, tua madre, la tua perfetta immagine. Verso le 11 Werther domandò al suo domestico se Alberto era ritornato. Il servo disse: sì, ho sentito condurre nella stalla il suo cavallo. Allora Werther gli diede un biglietto aperto su cui aveva scritto: volete essere così gentile da prestarmi le vostre pistole per un viaggio che penso di fare? Addio, state bene. Se le piace il suo palazzo resterò vicino, sarò ruba se le piace il vino. Se le piace camminare quando piove tanto, sarò l'ombrello di qualcun altro. Se le piace volare. Risposta per Francesca: sì. 349-238-6666 è il numero per comunicare con la trasmissione radiofonica Voi siete qui, che è detto velocemente. Hai ragione, lo ripeto piano, 349-238-6666, ma in realtà è per comunicare con tutte le trasmissioni di Radio 24 che sono in diretta. Francesca mi lasciò a 15 anni perché la rispettavo molto e lei invece non voleva essere rispettata affatto. Levitare di dichiararsi per paura di un due di picche, chiede Marco da Firenze, è un autorimbalzo? Se sì, sono un campione. Niente, Tiziano, mentre leggevo i pezzi di Werther, continua a dire questo. Se la meritava tutta. Cioè, avuto è partito con un delirio. Rivedrò te, tua madre. Ci rivedremo non so dove. Vabbè, non è bello però parlare così di uno che poi è mancato. Ma non è vero però. Pietro la Corte, lo chiede a te, non è vero, solo letteratura. 349-238-6666. L'ultimo messaggio di oggi è un messaggio che ci manda Elena, una qualunque Elena, che dice: ciao, sono Elena e non sono cattiva. Il nome poi è molto epico, comunque continuo ad ascoltarvi. Ciao Elena da Mantova, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Pietro la Corte e a Margherita Ina, grazie soprattutto a Nicola. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Laura, sono di Milano e la storia di domani è la mia e parla di Congo. Questa è la mia storia e io sono qui.